Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Davanti ai miei occhi si apre un mondo di materiali di ogni foggia e colore. Rotoli di tessuti, fili per cucire, nastri e bottoni. E poi bottoni e ancora bottoni. Da quelli semplici per camicia a quelli colorati e incastonati di pietre, con le iniziali, incise o di madreperla. Ciao, sono Simone, ho 30 anni, vivo a Roma e di lavoro faccio l'account commerciale. Perché quando Alessandra Tedesco ci ha detto dovete andare a Pitti Immagine Uomo, dovete andare a Pitti Uomo per due giornate che sono la giornata di martedì e quella di mercoledì, dovete cercare una storia che abbia a che fare con gli abiti da uomo, o con gli abiti, ci disse. Noi, insomma, l'abbiamo cercata e la cosa più vicina che abbiamo trovato è la storia di Simone, che non parla tanto di abiti quanto di stoffe. Parla di un negozio molto particolare, che era il negozio dei suoi nonni, che stava in una via del centro di Roma, che era un negozio in cui c'erano quello che avete sentito, nastri, fili, stoffe e bottoni, la cosa più vicina al luogo in cui ci troviamo. Buongiorno a tutti, sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, voi siete qui in diretta dalla rovente Fortezza d'Abbasso, ci sono qualcosa tipo 35-38 gradi, ma percepiti i soliti 42. La cosa bella dell'andare in esterna è che in sostanza nello studio, adesso siamo qui ospiti di The Bridge, quindi di là ci sono poltrone e di qui si fa la radio. La cosa bella, dicevo, è che oltre all'immancabile orologio di Davide Ciocia, si sta in questo studio tutti insieme. L'unico che parla sono io, come un imbecille. Cioè, come se siamo in uno, Laura Vanossi, Tiziano Bonini, Davide Ciocia e Valerio Rocchetti. Siamo in cinque, ma io parlo come uno scemo. Potete fare un cenno in modo che si capisce che siete anche voi, tipo oh! Ecco, perfetto, basta così. Giusto per far capire che siamo in tanti qui in diretta. Fuori persone vestite in tutti i modi possibili, persone con le montature degli occhiali molto colorate, coi pantaloni corti, pantaloni succinti, coi pantaloni strappati. Questo è Pitti Uomo. Noi oggi raccontiamo una storia che ha a che fare con la stoffa, ma ha a che fare soprattutto con i negozi. Qui non si vende niente, giusto? Vanossi, non si vende niente qui, semplicemente si viene a vedere. Però, vi ricordate quando eravate bambini e c'era un negozio, non si sa bene perché, forse, vabbè, se era di un parente era più facile, se era il negozio della nonna era una sorta di mondo di fantasia. Mia nonna, ad esempio, aveva una merceria in via Belletti a Romentino e mi ricordo sto bancone enorme pieno di bottoni, un po' tipo la storia di Simone e di suo nonno. Però c'è un negozio che in qualche modo è stato una sorta di rifugio o di mondo magico della vostra infanzia. Poteva essere l'edicola, la cartoleria, poteva essere una macelleria se avevate una propensione per la carne, oppure come Simona, il negozio di merceria abbigliamento della signora Mentina, scrive sul profilo Facebook. Voi siete qui Radio 24. Ci andavo spesso con la nonna, perché lì si trovava di tutto, dai nastri colorati delle scuole elementari alle tute per fare ginnastica. La Mentina ci tirava fuori tutto, la scelta sembrava infinita, era un posto surreale, tipo la borsa di Mary Poppins. Mi faceva provare la roba in un camerino ricavato nel retro del negozio dove c'era il magazzino e dove spesso io e mio fratello ci ritrovavamo a giocare. Una volta entrati nel negozio il tempo si dilatava e quando uscivamo sembrava di esserci rimasti un secolo. 349-238-6666 oppure, come al solito, Facebook e Twitter, voi siete qui Radio 24 o voi siete qui R24. Noi siamo qui in diretta dallo stand di The Bridge della Fortezza d'Abbasso per Pitti Uomo. Se passate qua davanti ci vedete perché siamo in vetrina. C'è un piccolo ulivo, secondo me questo è stato portato apposta. Quindi non era questo, è stato portato, mi diceva lei, mi conferma, anche perché c'è della ghiaia sopra, quindi è un piccolo ulivo probabilmente umbro. Non so perché umbro, perché c'è Bonini che è umbro, allora sarà toscano, ok? E gente che passa avanti, siamo proprio all'ingresso. Se siete da queste parti passate a trovarci, altrimenti state ad ascoltarvi la storia di Simone. La sveglia suona inesorabile alle 6:30, nonostante sia sabato e non ci sia scuola. Ma al contrario degli altri giorni della settimana, salto in piedi e con un'inaspettata solerzia mi preparo. D'altra parte oggi è un giorno diverso. Oggi si va al negozio. Il negozio dei miei nonni è una merceria come non ce ne sono più. Sta in una stradina del centro di Roma a pochi passi da San Pietro e serve un piccolo viaggio per raggiungerlo da casa. Saliamo in auto e via che si parte. Il tragitto sembra infinito. Cerco di memorizzarlo perché non si sa mai. Magari un giorno da grande lo farò da solo. Nonno imbocca l'Olimpica, la strada che taglia in due Villa Panfili. E poi ancora un paio di svolte e di preghiere per trovare un parcheggio. Ed eccoci. Infilo la chiave nella serratura del lucchettone. La faccio scattare. Poi ripeto l'operazione sull'altra vetrina. Mi faccio da parte e mio nonno rimuove i due lucchetti tondi e pesanti come il piombo. E finalmente tira sulla saracinesca. Ma la parte di Roma che piace di più è il centro storico, che da piccolo ho sempre vissuto come un'altra città, per quanto era distante dal luogo in cui vivevo, e che però era affascinante nei suoi vicoli e una vita quasi di paese, pur essendo una grande metropoli. Sì, perché mio nonno non pagava l'affitto ma la pigione, e non tirava su la Claire o la Serranda ma la saracinesca. E io ero affascinato da quel lessico che mi sembrava così tecnico. Davanti ai miei occhi si apre un mondo di materiali di ogni foggia e colore: rotoli di tessuti, fili per cucire, nastri e bottoni ancora bottoni, da quelli semplici per camicia a quelli colorati e incastonati di pietre, con le iniziali incise o di madreperla. Poi ci sono aspetti che rendono speciale questo giorno, ma che non riguardano il lavoro. Per cominciare, la colazione al bar col nonno. Il bar è due negozi oltre il nostro e il proprietario conosce tutti. Entriamo accolti da un caloroso «Sor Mario, buongiorno! Il solito?» Io ho il permesso di bere il caffè latte, insomma una colazione da grandi, anche se a dirla tutta il caffè era dosato più da un farmacista che non da un barista. La mattinata scorre veloce tra un taglio di tessuto e un'operazione di cassa, dove le clienti, più pazienti che divertite, attendono che io faccia i conti sotto l'occhio vigile dei nonni. Il momento del pranzo è il secondo momento top della mia giornata, con la pizza e la mortadella del forno all'angolo. La mangiamo nel retrobottega, circondati da gambe di plastica un filino inquietanti, mentre la nonna guarda una telenovela alla TV. In negozio è calato il buio e il silenzio, e mi posso preparare con un ricco riposino al climax della giornata, l'immancabile visita al negozio di modellismo. Il negozio di modellismo era immenso, poi visto da io che ero un bambino era estremamente affascinante, e la parte che attrae maggiormente la mia attenzione erano tutti i modellini delle auto di Formula 1, che a quel tempo erano tutte riguardanti Senna piuttosto che eroi del volante del momento. Sulla strada del ritorno sono sfinito, e credo proprio che la Sauber di Formula 1 che sono riuscito a procacciarmi la monterò domani. C'è ancora tempo però per l'ultima fermata, in una storica rosticceria di Trastevere, prima di terminare la giornata sul divano e addormentarmi cullato dal suono senza senso della TV. Diversi anni dopo, quella saracinesca venne tirata giù per l'ultima volta. Io quel giorno lì non c'ero, preso da nuovi interessi che l'adolescenza aveva portato nella mia vita. Ma forse è stato meglio così. Oggi uno strano gioco del destino mi ha portato a vivere a poche centinaia di metri dal negozio. Così, alcuni sabati di buon mattino, cammino fino al forno all'angolo, prendo un bel pezzo di pizza con la mortadella e mi siedo di fronte a quelle vetrine che nel corso degli anni hanno visto l'avvicendarsi di tante persone. Ma nessuno bella come noi. Da bambini i giorni della settimana sono vissuti in base alle cose belle o alle cose brutte che ti succedono. E soprattutto quando si comincia ad andare a scuola. Andare a scuola è il primo vero segnale che la vita è fatta più di obblighi che di piaceri. E lo dimostra il fatto che non puoi andarci quando vuoi, ma devi entrare a un orario preciso. E non puoi uscire quando vuoi, ma puoi uscire a un altro orario preciso. E quindi già a 6 anni... provi l'esperienza della prigione, più o meno. Non del lavoro, perché il lavoro è basato su un contratto per cui un adulto concede il proprio tempo e le proprie forze e capacità in cambio di denaro. No, proprio del carcere, perché un'entità superiore ti rinchiude quotidianamente in un luogo che non hai scelto, dal quale non puoi scappare e nel quale devi compiere anche delle performance per le quali sarai valutato. Non è un caso che si chiami infatti scuola dell'obbligo. Andare a scuola ti fa comprendere che nel mondo dove sei nato, non esistono i giorni intesi come ciclo di notte e di giorno, ma esistono i giorni della settimana. Quindi in generale ci sono 5 giorni dedicati alle cose che devi fare e non hai scelto, e di solito prevedono che tu stia seduto per molte ore e che risponda a delle domande in maniera corretta quando subisci un interrogatorio. E poi 2 giorni di libertà, in cui essendo un bambino cercherai fondamentalmente di dimenticare gli altri 5 giorni, e concentrare tutte le cose che non hai potuto fare durante la settimana lì dentro. Che esista una settimana da un certo punto in avanti diventerà per te naturale, anche se non lo è. Il ciclo della settimana si trasforma così in una struttura rigida e di cui è necessario essere consapevoli. Per cui il lunedì, per esempio, può essere il giorno in cui a scuola ti accompagna il papà e ti viene a prendere il nonno. Quindi il lunedì è il giorno degli uomini. Il martedì invece è quello della lasagna, che è il tuo piatto preferito e che a scuola, a mezzogiorno, non c'è sempre, ma solo il martedì. Il mercoledì è il giorno dello sport perché quando esci alle 4:30 ti portano a giocare a calcio e alla sera papà guarda la partita con te e ti è concesso stare alzato fino a tardi. Il giovedì è il giorno della stanchezza perché il giorno dello sport è duro per tutti. Per fortuna però è anche il giorno dell'ora di religione e siccome i tuoi hanno deciso di non fartela fare, tu passi un po' di tempo in palestra, sui materassoni verdi, a riposare. Venerdì è il giorno della mamma che ti viene a prendere più presto al pomeriggio e ti porta sempre a fare un giro con lei. E qualche volta si comprano dei vestiti e qualche altra volta si va a passeggiare al parco. È il giorno in cui, anche se sei piccolo, lei ti racconta delle cose da grandi. Ma per fortuna tu non le capisci e sei lì tutto contento perché lei ti parla, ti fa tante carezze, anche se ogni tanto magari piange, non è triste. Il sabato invece è il giorno dei nonni, che hanno una casa grandissima dove si può fare tutto. E poi hanno anche un cane. E allora è il giorno più bello della settimana, perché giochi sempre e mangi cose buonissime. E qualche volta vai anche al cinema. La domenica invece è il giorno in cui alla mattina si va in giro in negozi giganteschi. E quando fa buio, papà e mamma discutono e si parla molto del fatto che bisogna riposarsi, perché domani è lunedì. E lunedì è il giorno in cui ti accompagna il papà e ti viene a prendere il nonno. Quindi il lunedì è il giorno degli uomini. Il martedì invece è quello della lasagna, che è il tuo piatto preferito e che a scuola non c'è sempre, ma solo di martedì. Il mercoledì è il giorno dello sport, perché quando esce alle 4:30... È molto probabile che sentiate in sottofondo, se Valerio abbassa, non farlo Valerio, aspetta, magari più tardi, abbassa il pezzo dei Cure che abbiamo sotto, è possibile che sentiate un po' nel vuoto pneumatico dello stand di Radio 24 un subwoofer che pompa in maniera abbastanza impressionante, vi faccio sentire. Non si sente. Fortunatamente non si sente. Comunque non è ovviamente lo stand dei Bridge qui di fianco a noi, che diciamo è caratterizzato sostanzialmente dalla grande classe, ma è qualche stand tamarro più in là probabilmente, di cui non conosciamo il nome e non lo facciamo. Siamo in diretta, come avrete capito, dalla Fortezza d'Abbasso, da Pitti Uomo, dove c'è un sacco di gente che passa davanti, vestita anche da dandy. A questo proposito più tardi avremo modo di capire da dove arriva il dandismo, chi lo lanciò, perché devo dire, io non lo sapevo, Tiziano Bonini mi ha aperto un mondo. Parliamo però anche di negozi, di quei negozi che da bambino in qualche modo vi hanno resi felici per mille motivi. Andrea scrive: lo shopping sport della Nilde. Tutti i negozi di sport si chiamano tipo o shopping o super sport. Accompagnavo mia madre e mi tuffavo in un mondo meraviglioso di scarpe coi tacchetti e maglie da calcio. Per fortuna oggi, a distanza di 20 anni, detesto il calcio e gioco a baseball. 349 238 6666, oppure voi siete qui Radio 24, ripeto, in diretta da Pitti Uomo. Abbiamo al telefono Simone. Pronto Simone? Ciao Matteo, buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi? Ad Avellino, per lavoro. Chiuso in macchina fuori dall'ufficio di un cliente. Che cosa fai esattamente, Simone? Allora, visto che noi ci siamo sentiti anche l'anno scorso e sono stato ripreso per come avevo descritto il mio lavoro da amici e parenti, lo dirò in modo un po' più forbito questa volta. Sì? La job title esatta è Field Area Manager, in azienda alimentare. Area Manager. Mentre l'anno scorso ci avevi detto vado in giro a vendere roba da mangiare. Se vado in giro a vendere tovaglioli di carta, mi vedevano già i semafori di Roma. Benissimo, l'hai detto e quindi sarai ripreso dalla famiglia, perché è un'azienda familiare. Esatto. Questa, giusto? Esatto. Simone, quindi non ha a che fare nulla questo mestiere che fai e questa azienda di famiglia con il mestiere dei nonni e col negozio dei nonni, anche, no, giusto? No, assolutamente no. Devo dire purtroppo, perché quando, come ho scritto nel racconto, il negozio è stato chiuso, era ancora troppo piccolo per prenderne io le redini e i miei genitori già facevano tutt'altro. Tu sei romano però, vivi a Roma? Romano, sì. Quindi scusa, Avellino, quanto ci mette arrivare a Avellino da Roma? circa più di tre ore. Diciamo che io seguo da Roma alla Calabria, quindi viaggio abbastanza. Ah, segui nel senso che la tua area, l'area manager. Sì, esatto. Area manager. Come vanno gli affari? Beh, noi siamo nel campo alimentare, quindi ancora teniamo botta rispetto ad altri settori, però nel senso che la gente continua a mangiare, questo vizio ce l'hanno tutti. Ok, quindi va, insomma, funziona? Sì, ancora funziona, ancora regge, dai. Simone, riesci a venire al live oppure no? Avrebbe fatto tanto piacere, ma con un bimbo di un anno e mezzo temo che... No, però aspetta, no. Dico, Simone, dicono tutti così, mi avrebbe fatto tanto piacere, già non ci siamo. Però la scusa è che hai un figlio di un anno e mezzo. Sì, di un anno e mezzo, e già lo lascio solo tutta la settimana per motivi lavorativi, e quindi quando ci sono è bene che stia a casa. Ok. Intanto ne approfitto per avvisare una comunicazione di servizio, ma mica tanto, che Elisa del marketing mi ha appena comunicato che sono state chiuse le iscrizioni al live, perché abbiamo raggiunto il tetto massimo di persone che riescono a infilarsi nella sala collina, che è appunto la sala del Sole 24 Ore in cui facciamo la serata da ormai 3 anni a questa parte. Quindi comunque, Simone, non hai possibilità di recuperare, la cosa è chiusa, giustificata a monte. C'è la possibilità, però questo devo aspettare sempre che me lo dicano da Milano, una volta che siamo fuori, capito? Faccio l'inviato, faccio quello, guarda, devo aspettare che me lo dicano da Milano, forse sarà di nuovo un live streaming dal sito di Radio 24, ma questo ancora non lo sappiamo, e peraltro sento Simone che sei entusiasta di questa notizia, quindi mi fa piacere che tu la prenda, passerai la serata di giovedì prossimo attaccata al computer a guardare il live streaming. Dall'inizio alla fine. Simone, ti ringrazio moltissimo per la storia e la chiacchierata, ti lascio tornare a lavorare, perché ti immagino con l'aria condizionata a palla in automobile e non è mai bellissimo. Grazie mille, ciao, buona giornata. Ciao. C'è un messaggio di Carla che è simile alla storia di Simone, che dice: la signora al piano di sotto era una bravissima sarta, aveva 3 dipendenti. 3 pomeriggi andavo da lei, avevo 4-5 anni. Giocavo con i ritagli di stoffa, dividevo i bottoni, raccoglievo gli spilli con la calamita. Ascoltavo le chiacchiere delle sarte, ma quello che mi affascinava di più è quelle rare volte che mi faceva entrare nel salotto di prova, mobili antichi e velluto, lo specchio tutto intarsiato. Per i miei occhi di bambina era un mondo magico. Come si chiama la paura dei bottoni? Ha un nome preciso, quelli che hanno paura dei bottoni? Qua nessuno, siamo in 5 qua dentro. Bonini la spara a casa adesso, attenzione, ce l'ha, adesso la cerchiamo. Vanossi, sei qui, puoi darci una mano, non è che perché non sono Nicoletta Carbone non mi puoi cercare qual è la paura dei bottoni. Voi siete qui. Aveva smesso fino un attimo fa, invece ha ripreso esattamente adesso il boom boom delle casse. Ma torniamo noi, abbiamo la foto da raccontare di oggi, che trovate come al solito sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Simone è un bel ragazzo in posa davanti a una piscina di un albergo. Non riesco a capire se è in Italia oppure no, però immagino di sì. Non so perché me lo immagino nella campagna laziale, ma forse perché ho poca fantasia, essendo lui di Roma, è più comodo immaginarselo lì. Ha una bella polo a righe, bella, insomma, qui a Pitti Uomo non te la passerebbero sta polo a righe, Simone. Un orologio digitale e una fede al dito, quindi Simone, ragazze, è andato. Negozio, sostantivo maschile. Locale destinato all'esposizione e alla vendita di merci al pubblico. Affare, specialmente in quanto riducibile ad accordo o impegno contrattuale. Etimo, dal latino, negozium, composto di nec, non, e ozium, ozio. Torniamo noi, siamo in diretta da Pitti Uomo con il boom boom boom delle casse qui sotto, ma probabilmente sono quelle situazioni in cui si trovano gli inviati. Sarà che mi sento un inviato oggi? Mi piace immaginarmi inviato, in cui dicono: mi sentite? Sì ti sentiamo, lui pensa che non lo sentano e quindi dice boiate. Noi invece abbiamo la sensazione che qualcuno senta questo boom boom, ma lo sentiamo solo noi. E sul profilo Twitter del programma invece arrivano i messaggi di quelli che hanno avuto a che fare con un mondo magico, quello dei negozi da bambino. Michele scrive: è uno dei pochi che riesce a scrivere nei 140 caratteri di Twitter. Che ricordi? Un magnifico negozio di giocattoli e di modellismo disposto su 2 piani. Era il 69. E poi addirittura ci scrive Alex Bellini, che insomma è inutile far finta di nulla, lo possiamo dire, sarà presente alla serata di giovedì prossimo direttamente dall'Inghilterra. Dove sta adesso Alex? Ancora dobbiamo capire esattamente bene come e dove, ma sarà, ci sarà. Giovedì sera sarà con noi per il live finale. Ci scrive: il negozio di caramelle gommose da prendere con la paletta. 100 lire 10 caramelle, o forse 1000 lire. Non so, forse direi 100 lire, Alex. C'hai anche tu i tuoi 35 anni o qualcosa, quindi saranno state 100 lire. 349-238-6666. Intanto eravamo in 5, siamo arrivati in 6. Insieme a noi c'è anche il Naligios, per il semplice fatto che qui ci sono 15 gradi, fuori ce ne sono 34. Quindi, anzi, inviterei, se le persone fuori che ci sentono di fuori, se qualcuno fuori ha particolarmente caldo, entrate qui dentro. Secondo me in 15 ci stiamo. Il freddo è assicurato. 349-238-6666. Andavo al bar di Rineo, mi scrive Fabrizio, e mi regalava ogni volta i bucaneve. Immagino che i bucaneve siano un prodotto e non i fiori. I biscotti, scusatemi, qua in quattro mi guardano come fossero incoglionito. I biscotti, quelli con il bianco sopra, giusto? Deve essere divertente vedere da fuori questa scena. Tutta gente che indica su degli anelli sulle proprie mani, ma nessuno che parla. Prima dicevamo, visto che effettivamente una figura, per quelli ignoranti come me di abbigliamento, una figura che si vede molto di frequente qua per le vie di Pitti Uomo, della Fortezza da Basso, sono quelli che io definirei dandy, ma ripeto, perché non ne capisco nulla, con loro vedo dei pantaloni un po' aderenti e una giacca particolare e dico: guarda quello che è vestito da dandy. Scusate, quello là è vestito da dandy, ad esempio. No, quello lì è solo giapponese, non c'entra. Adesso non ne sta passando nessuno, però diciamo che è un'immagine abbastanza ridotta dell'essere dandy. E abbiamo scoperto, cioè io ho scoperto, sempre della serie Non ne so nulla, che c'è stato un signore in Inghilterra molti anni fa, alla fine del 1700, che ha inventato questa roba. Abbiamo trovato una bella storia su un sito che si chiama Nove Porte, Nove Mondi, Noveporte.it mi pare, che parla perfettamente, ci racconta la storia di Lord Brummel. S'avvista in Inghilterra alla fine del Settecento la fissazione per l'eleganza che anima certi giovani viaggiatori con uno spiccato amore per l'Italia, tanto da venire appellati come macaroni. Ed è sempre in Inghilterra, nella capitale, che all'inizio dell'Ottocento si notano dei passanti vestiti di tutto punto, spesso in modo studiatamente bizzarro, ma con una certa qual ricercatezza. Un'eleganza spuria che non vuol dare nell'occhio quanto far pensare. Ed ecco comparire nell'alta società londinese un frac blu, una cravatta immacolata, inamidata, degli attillati pantaloni color crema e degli alti stivali con risvolto, il tutto indossato dall'arbiter eleganze per eccellenza, Lord George Brian Brummel. Lord Brummel, detto il beau, il bello, battute sagaci, squisitezza nei modi, dotato di intelligenza e cultura, pareva a prima vista essere messo lì nei salotti londinesi solo per far figura, ma all'occorrenza era in grado di mettere in stato di inferiorità i presenti con qualche osservazione studiata o un altrettanto studiato silenzio. È l'eleganza di chi interpreta se stesso, di chi vive e dorme davanti ad uno specchio, come diceva Baudelaire. Gli invidiosi dicevano che Brummel era solo eleganza e posa, senza capire che c'era qualcosa di più. Presto Brummel diventa consigliere e amico del sovrano reggente, Giorgio IV, principe di Galles. Ma il beau, l'impertinenza elegante fatta persona, non riconosce la sovranità di nessuno, tantomeno del sovrano, aspirante dandy, che Brummel tratta malissimo, arrivando a volte a metterlo in imbarazzo in pubblico con qualche battuta sottile. Chinarsi Brummel davanti al re non sia mai, potrebbe sgualcirsi la giacca. Quando il reggente cerca di scimmiottare l'amico inventando il gilet sbottonato, tale moda non viene seguita da nessuno, se non da cortigiani, servi, camerieri o carrettieri. Ma fu la passione del gioco a rovinare il beau, Brummel. Con l'aumentare dei debiti diminuivano le sue speranze di continuare a far parte del bel mondo inglese. Dovette ricorrere agli strozzini e infine all'esilio volontario. Brummel morì pazzo in un albergo, al termine di uno dei frequenti ricevimenti immaginari al quale aveva invitato tutta la nobiltà inglese. Barbey d'Urville ce ne lascia una splendida descrizione in George Brummel e il dandismo. Dice: poco tempo dopo Brummel divenne folle e poiché il dandismo era penetrato in tutto il suo essere, anche la sua follia si tinse di dandismo. Certi giorni, con grande stupore del personale dell'albergo, ordinava di preparare il suo appartamento come per una festa. Lampadari, candelabri, candele, fiori in grande quantità, non mancava niente. E nello scintillio di tutte queste luci, lui, nello splendido abbigliamento della sua giovinezza, con l'abito wig blu con i bottoni d'oro, il gilet di piqué e i pantaloni neri aderenti come le calze del XVI secolo, in mezzo al salone attendeva. Attendeva l'Inghilterra ormai morta. David Bowie, forse il più grande dandy del Novecento, come giustamente mi suggeriva Tiziano. Stiamo per chiudere la puntata in diretta da Pitti Uomo, andremo in onda anche domani insieme sempre a... ci sarà Nicoletta anche domani, Nicoletta Carbone, e a Sebastiano Barisoni e ad altri, c'è qualcun altro? Basta. Emanuele mi scrive: ogni volta che i miei genitori andavano in uno dei primi centri commerciali, quindi qua già si sfora dal negozio al centro commerciale, quando ero piccolo cercavo il negozio di animali e rimiravo la murena che avevano in un acquario in vetrina. Il negozio ora non esiste più. PS Matteo, hai un debole per Nicoletta Carbone che la citi così spesso. Vi farei conoscere Nicoletta Carbone, poi sfido chiunque a non avere un debole per lei. Grazie a tutti quelli che, anche se in silenzio, hanno fatto la puntata qui di fianco a me. Grazie soprattutto a Valerio Rocchetti, a Tiziano Bonini, a Stefano D'Andrea, a Margherita Ina di là. Non li cito tutti, sennò non finiamo più. Noi ci sentiamo domani, sempre da qui, da Pitti Uomo, dallo stand di The Bridge. La storia di oggi era di Simone e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Dino e vivo a Biancavilla. La storia di domani è la mia e parla di quando mi sono sentito libero per la prima volta all'età di 10 anni. Questa è la mia storia e io sono qui.